così diventò sua moglie. Davide aveva preso anche Achinoam di Israel. Tutte e due furono sue mogli. Saul aveva dato sua figlia Mical, moglie di Davide, a Palti, figlio di Lais, originario di Gallim.